tu musichista, ma che background è? Cristiano sta a Margellina, cai? Cristiano è andato a me, sta a fare passeggiata a Margellina. Io sono il più forte del centro storico. E vai, vai, e basta lo fumo. Ciao Natali. Ciao. La radio com'è? Che c'ho il microfono suo, mi ho buscato. Va bene, va bene. Ottimo. Ottimo per la truffa, ma bella forte, attinge. A me non mi disturba. Non è burattosa come quella che stavo usando cos'era stamattina. Grazie. Come non era burattosa? Oh, hola, boom. Sono basso di qua. Anda bene mera. Aspetta, provo a alzarla un po'. Guarda un po' come va adesso. Va bene, va bene. Quello che ti volevo dire io, che ti ho sentito con l'MP P4 a manetta. E sembravi un bombardone. No, questo è l'MC60, Volevo sapere come va. È trense, te l'ho detto. Va bene, Natali, va bene. Ehi, te l'ho detto, perché qui si, secondo come metti il macchinino, strappano. Ah, ok. No, già. Va bene, va bene. Anda bene, Meda. Mi fa piacere che non sappi. Vuol dire va bene la situazione qua. Di lusso, di lusso. Quindi è risolto? Sì, ho risolto. Praticamente è il microfono suo questo. Dai, sono contento, dai, così hai fatto l'abbinamento originale. E l'altro me lo uso nel 3009, capito? Me lo uso. Ehi, ehi. Sì, quello, il MP4 è da, più da combattimento, dai. No, è da combattimento, capito? Natalino ne sa una più del diavolo. Marco, come sta andando? Amplificando sta? Allora, scusate, sono entrato, adesso c'è morto. Buonasera a tutti, chi c'è, chi non c'è. Un bacio a tutti. Fai la prova rispetto a Gianni. No, guarda a vedere se sta amplificando. Mi interessa quello. Oddio, no, non eccessivamente, comunque è rilassante come amplificazione. Gianni cosa dice? Gliel'ho già detto, ciao Marco, gliel'ho già detto, per me va bene, poi non so, il va bene mio se equivale a uno va bene suo, dove ti dica. Rispetto a come ho sentito stamattina con l'MV4, cazzo, che c'era questo bombardone, cazzo, lui era quasi incomprensibile, ragazzi, era asciu. Sì, Natali, comunque sì, ma è sempre il 6-0. No, forse no. Oh, già, chi siete? Quanti siete? Perché siete? Un fiorino. è passato un Ducato, il Fiorino è da parecchio che non è venuto in giro. È vero. Sì, propaganda. Ma Natalino è sprofondato nel QRM. Aspetta che ho dei messaggi da leggere, ero fuori, stavo guidando. Ma io, Natalì, Nara, ci sei o no? Che palle, telefono. Gianni, io devo chiudere. Finita la pace, parenti in arrivo. Oh, yeah. Non c'è problema, dai. Avevo acceso poco fa, vediamo un po' cosa succede, dai. Buon proseguimento di serata, Marco. Andando, non stai i miscele di Putin in casa? Vi siete calpestati? Ho detto se stai andando via. Sono qua Natalia. Marco, guarda un po' se va bene la modulazione, se è quella che quando uscivo io da campagna. Ma io da campagna non ti ho mai sentito, Natalì, non posso fare un paragone. Ho detto, devo chiudere che stanno arrivando parenti. Ho detto a Gianni che preferirei un miscele di Putin in casa che non i parenti. Quindi chiudo, ciao a tutti. Vai Gianni. Vabbè Marco, là. Volevo sapere solo se era il volume come quello di Claudio. No, Natalì, c'hai problemi a quel capo. Sembra che c'hai il processore staccato, capito? Buonasera a tutti comunque. Sono ascolto io qua. Ah, cappa. E allora non ne rugavo. Boh. Ciao Luca. Allora non è il cavo. Ciao Samara Zucchie. Anche degli strappetti, stai toccando qualcosa e quindi il segnale lo vedi mancare a scatti, a scariche, capito? Vero profe? Ciao Saverio, buonasera, sì, mi hai tolto le parole di bocca. Sì, ogni tanto se sembra che ci sia qualche contatto che non sia perfettamente efficiente, capito? Quindi va e viene. Sì, a livello di suono, a livello di modulazione, Natalì sei molto lontana da quella di Claudio, lo so, perché deve essere, io me ne accorgo, esco più forte con le mie BC4 che con questo. Ma il 60 quello? E allora, è 60, Zurgino è pumpenti, boh, chissà cosa malato ci va, ma ha dato più su gavo, però è peggio di chi di prima. Natalì, no, qua funziona il gavo, qua funziona il gavo. Ho detto, muovi il pulsantino di sotto, non lo so, se no domani mattina venga e me lo riprendo quel microfono, pazienza, lo restituisco, dico che non funziona. Ma stamattina non stava andando bene quando l'abbiamo sentito noi. Io lo so che stava andando bene, ma io l'ho provato qua, va bene. Quel capo è il mio, l'ho staccato dal mio microfono. Era mosso, però non sta pompando. Non lo so, Natalì, sono in triga. Non so cosa dirti. Lascialo stare e domani mattina vengo e me lo riprendo. Non è un problema, non è roba mia, te l'ho detto. Io non me l'ho fatto così, io l'ho provato qui e funziona, sul 140 funziona, e non ce l'aveva sul 140, non ce l'aveva su quella radio, non lo so, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Qua non pompa, stava pompando a mezzogiorno, ma io me ne accorgo che i picchi non sono quelli. Ma anch'io me ne accorgo, non è che sono stupido, 40 anni chiuso il MC60. Tienilo in mano questo MC60, sollevalo e mentre stai parlando muovi quel cazzo di tattino di sotto. Così sono sicuro che è quel tattino, perché l'ha fatto anche a me. E guarda a vedere. Ce l'ho in mano adesso, lo sto muovendo. Ora. Guarda Pavole, stava a fare che sia bumpente, però aspetta un attimo. Allora rovescia, non rovescia, ma si dice, tu quel tartino lo tieni, Natalini, e scegli il capo di me, lo tieni in out, ti ho detto, o in. Quando il microfono ce l'hai davanti, il tartino deve essere verso di te. Quando il microfono è appoggiato sulla base, quel tartino che c'è sotto deve venire verso di te, non dietro di te. Adesso come va secondo te? Secondo te come va? Secondo me non vai a prendere le bicchie ed è in out. Ed è in out? Ma come fa a essere in out, Natali? Il tuo tartino allo contrario va in bocciolo. Cosa vuoi ti dica? Adesso pompando sta. Sì, certo che sta pompando, ma ti ripeto, io l'ho provato e funziona. E poi i tartini non hanno mai educato, però il difetto di questi microfoni, che a me me lo fa spesso e volentieri, io ne ho quattro, e a volte vedo che non ci sono i picchi, lo sollevo e muovo quel cazzo di coso, capite? Però adesso sta andando. Guarda, adesso non sta andando perché è in. Se lo metto in auto mi fa i picchi, mi fa. Al contrario l'hanno invato il microfono, lo penso l'ha già fatto Valerio. Lui non ne capisce niente, mettilo in auto mentre parli. Adesso è in. Ora lo metto in auto, guarda a vedere. Adesso è in auto. No, ma avanti, cazzo, ma si buono. Cioè, ma rendetevi conto cosa può succedere. Ho piazzato il coso al contrario col microfono. Comunque ti dobbiamo tornare a pena da lì, perché poi ti usi mai niente un microfono. Non è forte ora, lasciala così. Confermo. Ciao Claudio, buonasera. Ciao a tutti, scusate, sono salutato, sto facendo corsi in Tamacari, ho dato in difficoltà, ci sono andato due volte, ho portato il cavetto mio, quindi non era il cavetto allora. Guarda, io là vengo i bicchi che stanno andando e va e funzionando. Se lo bongo in non funziona, secondo me mi ha fatto un circuito all'inverso. A Carigioso. Sì, ma quello non l'ha toccato nessuno, la cosa, quel pulsantino non è che uno lo prende e lo gira, perché è fatto così. Ma non è che c'è il tappo al contrario, no? Natalini, non è che c'è il tappo di sotto al contrario, no? Dove ci sono le scritte. Può anche essere, perché adesso è in out e funziona. Adesso lo apro e guardo. Un pelino, ma salta il pelino, sì, un po' che strappi, non è forte, ti allontani. E comunque scusate, così lo c'è lo Claudio, c'è il coso al contrario, o quasi che c'è dentro al contrario, è pure le scritte. Dato l'ora MC60. Io le trenduccia, là. Ciao Claudio, le trenduccia e dopo ci vediamo al corso Natalì, preparati. Ehi, salve, va bene, tra un po' c'è, dovete andare però. Vabbè, prova ad aprirlo Natalì a vedere, ma ti ripeto, io l'ho provato. Io prima dato l'ho provato e funzionava, sicuramente hanno invertito il tappo di sotto, però hai visto, abbiamo cambiato il cavetto, allora non era il cavetto, perché qua il tuo cavetto sta funzionando, vedi che ce l'ho attaccato e sta funzionando, e uno l'ho lasciato a Franco da cambiare i connettori, che sono tutti i connettori decimali, l'ho lasciato a lui, ho detto compra due connettori, farlo nuovo, poi dimmi cosa hai speso e ti ho risciolti. Mamma mia come sto, ricordati caro Gianni Lubrefetta, ti ricordi a Sparviero ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno, capito? Nessuno può avere la mia modulazione. Ehi, a questo è abbastanza evidente, lui si riferiva al fatto del pompaggio, non della e che tirava poco per via di questo interruttore non messo in posizione corretta. Si conferma, ma lì hanno tolto il tappo per controllare magari qualcosa, capito? E l'hanno invertito. Risulta in posizione out, ma in posizione in, perché il pulsante che c'è sotto per amplificare il circuito di amplificazione deve andare in avanti, in, non out, out è chiuso. Ehi, immagino, boh, adesso è sparito, mi. No, sta prendendo il microfono. Ah, operazione cuore aperto. E si conferma? No, ma glielo vado a provare, lo provano, ma se va bene te lo prendi, è nuovo nuovo. Non è un problema, capito? Io Natalino mi fido tantissimo. Quindi se non va bene, giustamente lo prendo e lo restituisco, anzi mi ricordo a capo. ma pare che il problema sia risolto, dai. È stato risolto l'inghippo. Ma perché la gente si è veramente le mani nel culetto, capito? Se un capo è messo in una posizione sotto, devi chiuderlo nella stessa posizione, perché tu vai a toccare e ti incasini. È evidentemente uno di quei tappi che praticamente si possono mettere sia da una parte e dall'altra, perché solitamente i tappi hanno solo un senso, no? Sì, ma questo c'ha quattro viti, quindi lo puoi girare, credo, penso di sì. Sono cose che io non faccio mai, perché questi microfoni io li uso una vita, non mi hanno mai creato problema. L'unico problema che crea, ma con l'andare del tempo, proprio questo interruttore ogni tanto si inceppa, e quindi siccome io lo sollevo, lo tocco e riprende a funzionare normalmente. Ho capito, sono quei microinterruttori, quelli neri, piccolini. Sostieni con i contatti elettrici. E invece io come farò senza l'MC60? Tu sei una bomba da sempre. Quel microfono è azzeccato. Stamattina sono passato lì andando da Natalino e ho visto la tua antenna. Piccola ma sincera. Così un attimo. Come è il NIN? Hai visto? Il tappo l'ha invertito. No, lo so, la mossa, no. L'interruttore l'ho smontato, adesso gli passa, lo sai che cosa? Un po' di quelle cose per i contatti elettrici. È una bomba, Natalizia, vanno bene. È il difetto degli M60, tu sei da tanto che non usi più gli M60, ma hanno iniziato a difettare quei microinterruttori, una cosa allucinante, i miei, io ne ho quattro, tutte e quattro fanno lo stesso difetto. Abbassa un pelino, Natalia, appena. Ma spieghi che prima pulisce bene quel microinterruttore, poi lo chiude e vediamo come va, se no ne do un altro, usa una futasem, aggiungo 4 MC60, ne do un altro e quello lo faccio sostituire l'interruttore, capito? Magari sicuramente dopo un certo tot di anni si sporca, basta spostargli un po' di prodotto, smattugiarlo appena e già si riprende. Sì, io non ho risposto niente, lo sollevo, lo muovo e torna normale, lo fa dopo 10 giorni, di nuovo, lo sollevo, lo fa, capito? Questo microfono c'hanno più di 30 anni, più di 30 anni hanno questi microfoni miei, ho già. Vedi tu, magari si imbrutta, sai, polvere, un po' di ossido, è normale che poi faccia problemi di questo genere. Ma secondo me non è tanto, quei microinterruttori mi sembra che hanno un carboncino all'interno per spostare, per scivolare, secondo me si consuma questo interruttore, va sostituito proprio. È tipo potenziometro, dai. A furia di muoverlo, dai. Sicuramente è molto delicato, quindi questo la pista in carboncino o in graffite si consuma e quindi non funziona bene, dai. Sì, sono quei microinterruttori lì, bravissimo, quelli hanno un carboncino, hanno una cosettina, capite, si consumano. È l'unico difetto che fa il 60, io ti ripeto, una vita che lo uso, è sempre solo quel difetto a farlo. Ma infatti gli ho dato il carretto nuovo, capito? Il carretto nuovo che c'era attaccato un po' più lungo, ho detto così, magari se lo metti sopra va bene, non lo tiri. E invece non andava bene, ma non è il carretto, perché io lo sto usando il carretto, vedi? Sto usando il suo carretto, quello che ho sostituito, gli ho dato il mio Natalino, quello originale, e lui mi ha dato l'altro che è quello praticamente comprato, non originale, però è un carretto normalissimo, spiralato, capito? E lo sto usando, quindi non era il carretto, è quell'interruttore maledetto. Dai, abbiamo risolto l'arcano, dai. Ehi, sto radio, 40 anni fa, lascia perdere. Dico solo che io l'ultima volta su una di queste radio ci avevo messo 220 euro. Spento la sera, così, modulando, ciao a tutti, dai, chiudo, sentiamo domani. La mattina vado a accendere, no, puntini, tutti i puntini c'erano nel display, se farà da rovumo. Come si è raffreddata, se farà da rovumo, mi è costato 220 euro, tutti i condensatori. Hola, hola, adesso è in out. No, stai modulando normale, mettilo in in. Adesso è in in. Esce in due, Natalino Alfa 1, bombardiere. Puntello adesso, non toccare nulla, lì. No, non c'è niente da toccare, ho già. C'è un microinterruttore che c'è sotto, capite? Proprio un microinterruttore che serve per disinserire e inserire l'amplificazione del microfono. Ehi, ehi, aiuto Natali, dai, facci sognare. Chiudi la Natali se l'hai spruzzato lo spray, lasciaglielo agire bene e poi chiudilo e mettilo in in e lasciarlo in in. Se dovesse difettare di nuovo, tieni dopo un altro, cioè metti di chi, è proprio quello. Non lo saccio, però il mio è lo stesso, anzi i miei, è inutile mantenersi difetto. Adesso questo non lo sto facendo perché da poco che l'ho pulito. Oh, io. Allora, prefetto, fa cosa? Più o meno, dai. Lamentarsi non serve a nulla. Cerchiamo nell'area oltre, dai. Cosa fai? Stai mangiando, stai bevendo, stai trombando, già te la frutta. Vabbè, qualche voce manca, dai. Lasciamo perdere. Vabbè, eccomi. Non è che... se la montagna non va la Maometto, Maometto deve andare dalla montagna, eh? Sì, dovrebbe essere così. Tu fai che sia così. Aspetta il telefono. Gianni, le profe ti chiama Natalino Alfa 1. Zitta, Gianni, un attimo. Eia, ti conviene spostare anche un po' di prodotto nel PTT o nel tasto, insomma, che si sente un po' di rumore quando lo rilasci. A me prova, Natalino. Ehi, aspetta, cosa prova? Lo sto chiudendo, ok? Lasciatemi il tempo di chiuderlo. Muoviti a chiuderlo che sta passando Franco a prenderti. Ce la sto facendo sentire in diretta. Senti, gli pare una motozappa. Ma ci veniva la bulldozer, più forte di punti, no? Non si è sentito, invece sul 45. È probabile. Prendi il gas con sigaretta, chi su che sigaretta. Riesci a vedere il controllo un attimino. Ehi, controlla, se no io devo controllare con l'altra radio. Negativo. A queste coordinate tutto tace, non si sente niente. Allora non c'è, allora è impegnato. No, stamattina c'era un po' da brutto, ma adesso proprio nulla da freccia. E il poco faccio da ticchettacca. Nara, dimmi Natali. Natali, chiusa il tuo microfono. Tutto a terra ne è caduto. Il microfono si è girato e l'ho musicato. Sì, sicuramente. Ebbè, Natali, se non è passato Franco a prenderlo perché mi ha telefonato e sto andando a prendere Natalino. È andato la Fusera a prendere due connettori nuovi. Mi sta facendo il carretto nuovo. Con un'altra radio. Se ti compri già la roba e te l'hai di fatto. Mandano la roba tutta magnata, ragazzi. Oi, sicuramente sarà impegnato. Per quello non risponde. No, è già tardi, sono già le 6:30, deve andare al corso. Hai il patentino? Lo deve fare lì, dai. Se non va bene, ne ero un altro. Già ne ho. È quello dove si tirano il pallone. Oh, vabbè, dai. Io 10 minuti mi sposto. Ci risentiamo poi, casomai, se... Ok, qua. Ehi, ehi, già sono qua io, sono in radio. Sono in radio, dai, ci sentiamo dopo già. Andiamo, Rex. Sì. prova. Beh, c'era un po' ma in questo canale. Beh, ma fredda faccia vai. Beh, mi faccio i punti. Fredda faccia vai. No, freddo, no, caldo. Ciao, claro, me. Ehi, c'era la prefetta, quello fa. E poi si allontanava 10 minuti e si è andata a fumare. Ah, boh, claro, lo so, io stavo passando a farmi la luce, ho acceso, ho schiacciato un paio di volte e niente. Perché non ero qua davanti, la signora, stavo mettendo roba al forno per stanotte, l'ho già preparata, verso le 7:30, dopo l'accendo. Allora, no, stavo guardando, mi è apparso questa cosa, c'è un MC, no, non MC, un Tarne più 3B, microfono vintage di seconda mano, 80 euro più 10 di spedizione, bello, nuovo nuovo. Ce l'ho dentro l'armadio, un Tarne più 3B nero, che me l'ha regalato il Bruncetto. Se non ti sei via, usare. È del Galaxy, lui lo usava sull'Urano, se c'ha lo stesso attacco del Galaxy. Tappagappa, va bene. Così è lì, dentro la maglia c'ho quello, Savelta per il Galaxy, MP5, e poi c'è l'attacco dell'Herbex. Poi allora andai il microfono, la voglia. Sto fanno per i baracchini, ma non mancano mai quelli. Quello non devono mai mancare, devi fare una prova, devi fare un questo microfono in mano, no? Invece niente a fare, e vabbè. Savelta, l'hai provato Savelta nel... Ah, no, non è forte. Che non mi piace quanti microfono, beh. Hai creato, cara. E poi su il bomber che è un bel feo. A me questi microfoni flessibili non mi piacciono. Ho anche la Donis, la V508. E dentro l'armadio, nuovo, non mi piace. Non mi piace, capito? Non mi piace. Come la MC85, come la MC80. Non mi piace questi microfoni. Io la MC60... oppure Tarne più 3 per i baracchini, MB+5 più 4 per Bellino, ma non è che cosa flessibile, non mi interessa. La verità, abbiamo gli stessi gusti, claro. Anche a me non è che mi piaccia molto, con questo flessibile non mi gusta. No, non mi piace il doppio, capito? Sa di roba di scaldabagno, di doccia. No, mi è apparso questa cosa, sto guardando perché mi è apparso un SM20 l'altro giorno a 100 euro spedito. Ma se me lo dici così? E come te lo devo dire? Cosa ne so io? Claro, mica so che tu perché un SM20 stai cercando? Da morire, per l'820H, per l'ICOM. Da morire, non ne ho provato niente. Se lo trovi avvisami subito, te lo ordini subito, immediatamente, ti faccio un bonifico immediato. L'altro giorno mi è apparso, dopo qualche ora l'ho guardato, non ve l'abbio, sicuramente l'hanno venduto. Ma una ruba, cazzo, sono gli unici microfoni che vanno bene per gli ICOM. Come l'MD100 va bene per gli AESO, ce l'ho, l'MD100 ce l'ho nuovo per il 920. Manca il microfono dell'820H, sto usando il microfono normale, l'ho provato in tutti, con adattatore, Fabrizio mi ha fatto l'adattatore, Kenwood, ICOM, niente da fare. Funziona ma male, non funziona bene. Ascolta, Cla, dalla persona dove l'hai acquistata quella radio, l'hai provata a contattare? L'aveva già venduto. Bisogna chiedere, lo sai a chi? A Francesco lo può chiedere se c'è qualcosa. No, Francesco non ne ha SM20, se no la calloggia non mi viene pizzicato. Francesco vuole avere l'SM6. Francesco Milano. Ah, Francesco Ciccio. Qualche amico, sai. E come l'avevi mandato il messaggio? Se ti procurava, o un altro messaggio l'avevamo mandato. No. Io se vuoi glielo mando un messaggio che stai cercando una cosa così, magari lui è più nel giro, capito? Ma cosa così dice? Sto cercando, mi serve un SM20 della ICOM. Hai qualcosa sotto mano, tu o qualche tuo amico? Guarda, sto cercando Motozappa perché gli ho mandato anche un messaggio. Aspetta un secondo, che glielo mando. Manda, subito, mandiamo subito bonifico. Mandato, Claudio. è arrivato pure lì. Può darsi che ci aiuta, eh. Cosa? Ha detto che gliel'ho mandato e può darsi che ci aiuti. Mi è già online, forse lo sta leggendo. Magari lui lì c'è qualche amico o qualcuno. Io ci ho provato in tutte le maniere, ne avevo trovato uno fotografiato, tutto brutto mai, lo stesso, mi sembra che era 80 euro più le spese di spedizione, capito? Non l'ho preso, perché sono microfoni molto delicati, se non è trattato bene, ne bambi di culo. Ascolta Clay, invece a Roberto Rapido, lui era di Amatone, provato a mandare un messaggio, prova se abbia qualcosa sotto mano. No, a Roberto non ci ho pensato, lo sai, non ci ho pensato. Se tu ce l'hai su WhatsApp, perché io non ce l'ho su WhatsApp, c'ho il numero di telefono, però da qualche parte, ma devi là. Mandalo anche a lui un messaggio. Glielo mando, non c'è problema. Mi sta registrando un audio, Francesco. Senti, la dice Francesco, ma mandalo anche a Roberto. Mandalo a tutti quelli che tu conosci, che sono radioamatori, CB, quelli che muovono sul 45, ma qualcuno ce l'ha e non lo usa, capito? Ascolta, ma se io entro di forza qui giù, dove sei tu, più giù di casa, qualcuno lo trovo? Senti? Con la forza, qualcuno lo trovo, più giù di casa mia. Ma sì, non ti capisco. Più giù di casa mia, chi ci abita, non lo sai? Non ce l'ha, ne ha quattro, manco una me ne va. E appunto, ho detto, se entro di forza, prepotente, no. Aspetta, ascolto il messaggio, Clara. Ma che hai detto? Mi ha detto di guardare su Ari Firenze che ce n'è qualcuno in vendita. E io guardo su Ari Firenze, lo che guardo, se non va giù linea. Guarda tu, se ti chiede il nome attivo, metti S0 DFB. Gliel'ho già dato per te. Gli ho detto che lo stai cercando tu disperatamente. Mi ha detto che l'ha venduto da poco perché lui il microfono da tavolo non gli piace. Guarda che un cazzo migliore microfono della Icom. No, ho detto su Ari Firenze, se tu entri su Ari Firenze, a volte ti chiedono il nome attivo, capito? Perché è, non lo so, un sito molto particolare. Se ti chiede il nome attivo, digita IS0 DFB, che già ci sono nel corbo, io già controllo, non so se sono radioamato. Ah ok, aspetta che mi ha mandato un altro audio, aspetta che l'ascolto. Sì. Allora, in poche parole mi ha detto che chiede, ok? Però mi sta dicendo che l'SM30 è molto superiore al 20 e costa 160 euro nuovo, così mi ha detto, però mi ha detto che già chiedeva a qualche amico. Massimiliano, l'ho provato anche a 140 nuovo io, me lo vanno, capito la maschera, ma non mi piace, è flessibile. Ah, anche quello lì è flessibile. Allora, è uguale alla Donis, preciso identico, più bellino, cromato tutto nero, ma non mi piace. L'SM20 invece è tipo l'MC60. Ascolta, com'è questa cosa? Io non ci sono mai entrato su questo Ari, com'è che si scrive? Ari Firenze. Quando ti appella avviliata, se ti fa entrare controlli, se non ti fa entrare, che ti dice di digitare il nominativo, digita IS0 DFB, io sono su QRZ io. Aspetta che guardo un po' e vediamo cosa riesco a fare. Io la prima volta che entro qua non so manco come dire questa cosa. È un sito dell'Ari, dove c'è il mercatino. Perché adesso a Firenze ci sono tutte le pagine, c'è scritto mercatino, digiti su mercatino, se ti chiede il nome attivo usa il mio. Quindi devo entrare dove apparati radioamatoriali, accessori, antenne, domande, accessori quindi, giusto? Guarda se c'è su accessori, antenne no, guarda se c'è su accessori, il microfono fa parte dell'accessori. Aspetta, sto guardando. Guarda, mi sembra che avevano tolto questo sistema di inserire il nome attivo. Capito? Però loro sono molto schivi e vendono a radioamatori, capito? Perché è la sezione reale di Firenze e c'hanno il mercatino e ci sono sempre delle cose molto molto interessanti. Io se in caso che vedo qualcosa è già te lo dico a te, ti organizzi tu, io no, c'è un coso, c'è un ICOM SM8. Ma non ce n'è di SM20 non ce n'è qua, c'è un MC50, un MFG, no, non ce n'è. SM8 sempre flessibile, non mi abbiate, non mi abbiate, anche se è un signor microfono per ricco, ma però non mi piace, cazzo, allucinante. Lo so, è un problema questi microfoni, perché mi stava dicendo Francesco che ormai sono fuori produzione, capito? E quindi lui dice prendi l'SM30 che è superiore, però io non c'ho i suoi gusti. No, non mi piace, ma la maschera me la dà 140 euro nuovo, capito? Se consideri che l'SM20 lo trovi tra le 90 e le 100 euro, 80 più le spese di spedizione, 90 più le spese di spedizione, a questo punto ce l'hai nuovo, ma non mi piace proprio esteticamente, ma ci via. Se roba così a flessibile non ti piace, Clara, è inutile stare lì a frugare, a fare, capito? Quindi alla fine aspetta, magari capita l'occasione, c'è. Certo, non c'è una vita. Ah, quanti Icom avevo io? Avevo 3 Icom. Tre Icom. Il 765, no, il 756, il 275H e il 475H. Tutte e tre con l'SM20, mira Gioventù di Gatti. Vedi, anche questo qua è bellino, questo cos'è? Questo è... confuso. No, guarda, i microfoni Icom ma flessibili sono l'SM6, l'SM8, l'SM30 e poi ce n'è anche un altro, non so se l'SM50, una cosa del genere, ma sono tutte flessibili, non mi piace. Mentre quello bello, l'unico che hanno fatto è l'SM20. Ascolta, Clay, tu non c'hai un 60, un 50, perché non provi a farne l'attacco da cosa? Te lo fai fare da Guido Bravo e te l'attacchi alla Ico. E l'Ico con la Kenwood va bene, o il 60 o il 50. Non fatto Massimiliano, c'è un adattatore da 20 cm fatto a regola d'arte. Ico e Kenwood per non toccare il microfono. Provato con l'MC60, con l'MC50. Non va bene. C'è un fruscio sotto, non so perché. E il Tarn più 3, provato a farlo fare così. ho messo l'MB più 5, ti ricordi, quello diretto Kenwood, sempre Kenwood Icom, anche quello metallico, bruttissima la modulazione. È inutile, là, ogni radio ci vuole il microfono suo, qua. Quindi tu stai usando il suo originale, così? Ma il sapone per usare, ma una rottura di balle, infatti io quando non uso la radio lo stacco il microfono e ci metto il capo, perché se rimane chi mi mette a ribiri, capito? Quando la uso la radio lo attacco il microfono. Ehi, vabbè, poco traffico c'è me. Sì, quello faceva Roberto con Gianfranco, ma non c'è dialogo, non c'è niente, non ti sentire a ascoltare quello M qua, parli, fai, dei dispiaci, matta cosa. Come sempre, io sono così, sai, sono così interessati e si parla eccetera, si entra, ma per ascoltare quello M metto qua. Perché così, claro, così fa vita di matta asciutta e chitarra invece si fa vita solo radio antenne, boh, prove, controprove, boh, alla fine è come canale 10. Infatti, ma io prove, controprove, non me la fottimo da antenne non raggio, quindi cosa devo stare? Ascoltare gli altri che fanno prove e controprove, non mi interessa. Comunque sono sempre nel mercatino di questo coso e sto sempre scorrendo. A giudizio non vennati che stesse mai 20, boh. No, ma è un microfono eccezionale, ma scegli, guarda, credimi, io ne avevo comprato due nuovi e uno usato, e ce l'avevo sull'Icom, era una cannata, andava molto molto bene. Aspetta un attimo, arrivate l'aria. A passare. Ora. Clara, se mi stai ascoltando, passo a farmi due passaggi a 45, dai. Chiamatomi a Massimiliano. Ehi, Clara. Ehi, chiamatomi a Mi stavo ascoltando un po' di propagazione a 45, dai. Oh, propagazione c'è. Ehi, c'è Rocco, quella solitaria lì da tanto. Io te l'ho trovato il microfono, ti ho anche mandato la foto. Oh, adesso la guardo, aspetta. Ma costa un bel. Un bel. Un bel. c'è anche il leader però. Ma quello è troppo, non li spendo quei soldi. Solo quello mi ha apparso qua. Te lo sto dicendo, pochi ce ne sono in giro. No, 188 dollari no, non li spendo. Io lo comprare di nuovo. Alla grande. Adesso chiamo, provo a chiamare. Domani sabato è chiuso, lunedì. Provo a chiamare alla. Come si chiama? Quelli che hanno fatto la Marcucci, la Icom proprio. Per un po' se c'è qualcosa. Ma una cosa di una furti, le attacchi alla sapoletta già va bene. Se capita l'occasione ti obbligi, se no ti lascia dire in busciacca di una cosa ne fai. Ma poi alla fin fine mai fa mai che non fa fare. Non è uso del radio, non c'è la sapoletta, quando mi serve l'attacco il pallo. Mi sto per affare. C'ho un microfono MD100 per il 920 e l'MC60 per il tempo. Ma infatti per quello te lo sto dicendo, Cla, cosa te ne frega? Quando capita che devi fare un questione, attacchi al sapoletto, va bene, così la sai, gli viene rompito il cazzo. Sì, una grande, hai molto ragione, perché abbasso qua. Usando? No, sto usando il 430. Ah, ok. Perché non sto spingendo? Sì. Sì, la spingi, la spingi. Ah, è una volta scelta. Qui stiamo togliendo, sto a fare sotto. La spingere. Sì, a voi va bene. Perché ogni tanto bisogna cambiare anche qua, vedi qua. Questo è. Questo è 500 e questo è 50. Aspetta, vabbè. Beh, a 50 c'è un'altra modulazione. A 50 deve andare, per forza. Gava, gava. Stavo dicendo, beh, domani non ci scende la ghiera a vederti le frecce tricolori. No, non la gestita che la vita vuole dare le frecce tricolori. A volte la prima a me a Sassari, no. Ci vado più a vedere che cosa non sceglie. Quando ero ragazzo, ho mandato il tribuna, fu di artificio, fece tricolori, non mi fondero. La magia bugana, la macchina. Ascolta, ma se me la regoli bene questa radio, perché non me l'ha fatta abbassare Luca e c'è che era troppo forte? Cosa vuoi regolare, Clark? Allora, se sta spingendo bene, se è forte la lascio così, se posso aumentare ancora l'aumento. Ma per me è... aumentarla magari no. A quanto ce l'hai, Michi? A 2? A 2,5. Portalo a 2, giusto per curiosità. No, così a 2. Si è abbassato un bel. Ma ti dirò, per fare salotto così va bene. Portalo tra 2,5 e il 2. No, così a 2,5 come era prima. Lascia la così che andava al radio. Va bene, no? Lascia stare così, siamo pure troppo... Dicono che è troppo rimbombante, è troppo forte. Io ti sto ascoltando volgare, si sa, arriva una bomba qua. Bella radio, forte, presente, va bene. Ma lasciamo stare così, va. No, è il 430 sto usando spesso. Sto usando spesso il 430, quando l'ho fatto tutte quelle cose uso molto più questa, perché come ricezione sono andato in culo a 140. Se l'abbiamo fatta da prima è andata di lobby isso. Se l'abbiamo fatta da prima me lo ricordo. Stai sempre infierendo, carissimo. La verità. Compagniero. Buonasera, buongiorno. 3-0 divisione. Secondo te se era andato di avesso a radio una recita dai occhi? Bueno. Non ha messo il filtro M, nuova, sia veramente bella esteticamente, già come mai avuto così bella. Ce la conosci, non c'è bisogno di niente. La mia sì, funzionante, tutto, quella che ho venduto, però i case manca paragone con queste, manca il frontalino, tutto. Era più da tanta, capito? sono stati fatti adesso, volevano fatti da prima e quindi era stata ancora, è ovvio, non se la movita è ovvio, però vabbè, è andata così, pazienza. Sì, vabbè, quando capita già prendiamo un'altra, lì si è accesa la ventola, anche silenziosa, anche lì. La ventola poi delle 4.30, come quella delle 4.40, capito? E in verticale, dietro, quella del 140 è dentro, in orizzontale, è superiore in tutto il 4.30, manca paragone. Perché la Lecce? Piglia a dire un altro, grano, cosa me ne affutta a me, io non la giuro di pigliare. Piglia a dire un altro, di cosa? Io ne ho due, Massimiliano, sai benissimo che non ti ho mai nascosto niente. Ho la linea completa del 140, completa di tutto. Radio, alimentatore PS50, AT250, che fa commutatore, voltmetro, wattmetro, quello che è automatico, la colonnina del MC60, c'ho tutto. Questa linea può fare linea anche col 430, tra i gimmi, io e il bevendo con 140, mi porto tutta la linea con 430, perché è uguale, capito? Anzi, va molto meglio, c'è un break così, un break che è K73, provincia di Lecce, un altro amico? Non ho capito, sei Antonio? In provincia di Lecce, Puglia, Sud Italia. Antonio dalla provincia di Lecce, ciao, buonasera, ben ascoltato. Sei un po' di QSB, però ti ascolto abbastanza bene. Claudio Sparghiero, Nord Sardegna, città di Sassari, in compagnia di Massimiliano Bulldozer, nella stessa città. Avanti Massimo, lo senti? Sì, io lo sento, Santiago Nove, non so se lui a me mi ascolta, perché io sto usando 2 watt, Claudio, lo sai. Ciao Antonio, provincia di Lecce, Bulldozer da questa parte, non so se mi ascolti. Sì, sì. Sì, Bulldozer, ti ascolto bene, Santiago 8, Radio 4. Saluto anche l'altro amico che non ho copiato il nome attivo. Ok, a te Bulldozer. Allora, ok, sì, ciao Antonio, tu mi arrivi Santiago 6, Radio 3, un po' bassino, ma io sono liscio come l'aria, eh. Non sto usando, giusto 2 watt dalla radio, perché siamo in QSO qua in provincia di Sassari. Ok, te rimando lì Claudio Sparghiero da Sassari, vai Cla. Sì, questo è l'Antonio, Claudio Sparghiero, come l'uccello rapace, il mio nome è Claudio, la città è Sassari, avanti. Sì, sì, Claudio, Claudio, complimenti per la tua stazione e anche l'amico Bulldozer. Claudio, confermami, nella modulazione risente, ma sto usando un partner, un vecchio partner che sento dalla pubblica, Bulldozer. Sì, allora io sto usando un Galaxy Saturn con un Turner più 3B, sì sì. E invece Claudio, lui è un radioamatore, quindi sta usando un altro tipo di radio. Non ti ascolto bene di radio, sei un po' saturo, boh, sei impastato, non lo so. Sì, io sto andando con un PS430 della TV, del microfono un MC60. Complimenti, complimenti, no, io un vecchio Super City Kick, un Turner, ho abbassato un pochino la il volume. Adesso mi ascolti? Sì, adesso ti ascolto meglio, va meglio di radio. Non ho capito cosa mi hai detto, cosa hai detto, la conosci questa radio? No, io sono in frequenza da circa 45 anni, sono un vecchio CB e tanti amici di Sassari ho avuto modo di modulare in passato. Sparghiero mi dice qualcosa comunque, a te... Sì, sono le vecchie baracche della Kenwood, quelle analogiche, e quindi fa molto bene. Io la uso solo il 27 nella fame di 11 metri, per quanto riguarda la banda materiale uso un effettino 20 della Yaesu, da 0 a 50 mega digitale, insomma DSP, un po' più di ultima generazione, mentre questa la uso per fare questione locale. Molto bene Antonio, 5-9 in questo passaggio, avanti Massimiliano. Positivo, là c'era anche qualcun altro che chiamava, però non sono riuscito a capire chi era. Là. Va bene, no, io lo ascolto bene Antonio, dai, Antonio, avanti, va bene, se sarà tutto, andava bene. Sì, sì, ti ascolto, un po' più bassino, ma ti ascolto. No, forse Classi sta chiudendo un po' la propagazione, sta girando da qualche altra parte. È un po' strana la propagazione, metterà pure il colpo Antonio. Attento Antonio, ascolti Sassari. Caput. Kappa Brioscia è positivo, dai. Positivo, dai, Kappa. Dai uscire, non venendo la mano. È così. Sì, sì, comunque tu fatti la linea del 430, che tanto quello lì poi, quell'altro non te ne fai nulla, rimane la giura, quindi. Boh, ci potrebbe anche fare. Non è un problema. La linea del 430 va benissimo perché la T250 si accoppia al 430 ed è superiore al 140. Gli attacchi sono uguali. S50 è di linea lo stesso, la colonnina è proprio del 430, perché si chiama ST430, perciò fai linea con quello. Però va bene, ha voglia, va benissimo. La 27, ehi, ha voglia di andare, mi rimuovo il soppalco, lo si abbascio, e pongo il 430, linea completa, l'effettino presente con la colonnina blu. Troverete noia. Comunque è riapparsa quella persona, eh. Riapparsa? È riapparsa quella persona, che tu sai. Ah, sì. Ma non hai compreso però. No, mandamelo a WhatsApp. Questo periodo ce l'ha detto un po' a farfalle. Aspetta che ti mando un vocale. E prima telefonami, che se arrivi dopo un quarto d'ora. Telefonami. Ma mai il telefono prende, te l'ho detto, ma ti simile, se non ti chiamo io. Vai, ascolta, te l'ho cade, te l'ho mandato. Ora, mio hermano, vamos a ver se va scusciando la sardigna qua che chiama delante. Attento, mio hermano, scusci dall'isola della Sardigna, delante. Mi ha bulldozzo, me. Adelante, hombre, adelante. Oi, adelante. Vamos a ver se va scusciando qua la stazione di Chirivani. Vamos alla playa. Ascucci qua, Tore Marmittone. Tutto smarmittato, ciao Lupo Fetta. Ciao Massi. Vabbè, come, accende propagazione. Ti ho girato un attimino a 45 e dalla Calabria stanno bombardando a 9:20. Boh, io ho girato poco fa, ma niente di eccezionale, dai. Da me, poi boh, dagli altri non so. Sì, va bene, Brefetto, bisogna vedere come li ho girati. Oh, è entrato Brefetto. Lì ti ho risposto all'audio, non me li manda più. Ci nostro quella te cosa. Ciao Brefetto. Ma è camera tua, non prende questo telefono. No. Buonasera a todos. Prende se mi chiami, ma se non mi chiami no. WhatsApp non prende. Ciao Brefetto. Io Brefetto, allora. Io come poco fa, eravamo in prefettura. Davvero? Io. Davvero, sì, lo prefetto, cosa hai combinato? Pensi mica sono come sia un prefetto, amico. Ma non sei stato tu quello che chiama Maddalena l'altro giorno, no? Hai facciato un gabarito. Cosa hai detto? L'altro giorno chiama Maddalena, cazzo, per un cassonetto hanno facciato un gabarito nel turbino. L'ho letto sulla nuova. Cosa ne facciamo? Un gabba marino? Ah, lo credo. Aspetta, mi ascolto il messaggio. È molto semplice il messaggio. Ascolta per fare i sottilizzi. Però una roba già. Lì vicino a casa tua. No, è la piazzettina che c'è scendendo dall'arcivescovaro l'altra mattina. Un tizio della... uno spazzino praticamente aveva finito il servizio, ha visto una macchina che era qui da qua i bidoni della Mondenza per far entrare la macchina in parcheggio, l'ha detto che stava sfasciando tutto, l'ha detto cosa, ha detto guardi che chiama i vigili, come ti ha detto chiama i vigili, ha pigliato, ha detto la sportella e ha bucato la katana. Ma lo giardino a tutti, ma tutti i bini. Andavè, ho letto. Bravo. Allora, prendi e metti a casa, a tutti i bini. Sì, già è a casa, infatti. Quando devi uscire, apri la porta. Però, quando apri la porta, la testa è tutto fatto. Ehi, a brioscia, va bene, mi. C'è l'uccello qua che vedete, ma non mi apri dalla gabbia, fammi volare un po'. Cazzo, proprio esce che apro anche il mio uccello, lo faccio uscire, scegli va per l'aria. Scappa l'uccello, scappa. ma caro, tu io fai un cornicione, insomma. Ciao, è sempre un bisogno, Bisogna con un cornicione e bisogna con l'aria. Tu, per te, cosa avrai, con un cornicione o con l'aria? caffè? Ehi, il mio c'ha l'unghia. Con l'unghia ce l'hai? No, quello no, io non ce l'ho particolare, quello allora. No, no, non è di razza. Ah, il mio c'ha il ciuffo in fianco. Anche il tuo? Oh, il mio c'ha un occhio solo come Polifemo. Gesù, beffè. Ma sicuro c'è questa che tu canale, sì? Gesù, cazzo. Bartolomeo Chisiele, buona, ma ti piace sempre. Camminiere, fai da bravo. Se no ti auguro a... amico mio, con un occhio solo e due valigie in mano. Ah no, ogni tanto va bene a scattiare così, no, lo bref. È tutta colpa tua, mano, Massimiliano. Sei tu che stuzzichi. Ma tu ti rendi conto? Noi andiamo a fare un paio con Claudio, ci siamo sempre i gamberi di mezzo. Cosa, non siamo intendendo da arrivare, siamo abbastanza tranquilli, noi stiamo facendo parolacce. Non ti compresci. Perché non vi facevano come lo ci giuro? Certo che ci può essere, la voglia. Cava, cava. Cosa stai facendo, non mi fai, ma niente, sì. Negativo.